Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Libia, è scoppiata la pace. Trump, Biden. Ieri in televisione la gara delle inesattezze. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. This is the same fellow who told you this is going to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter. We did. You know, Joe, I ran because of you. I ran because of Barack Obama, because you did a poor job. If I thought you did a good job, I would have never run. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Keep yapping, man. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16:09 minuti, 09 secondi in questo esatto istante. L'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano vi racconta e vi rende conto di quello che è stato l'ultimo dibattito televisivo prima dell'appuntamento del 3 novembre alle presidenziali statunitensi. Ieri Trump e Biden in ben 90 minuti hanno dato vita a, finalmente, qualcuno ha detto, un dibattito come si deve. Si è parlato di contenuti, c'era l'escamotage che permetteva di mutare i microfoni e quindi evitare accavallamenti e anche quella dose di vituperio che era stata caratterizzata, che aveva caratterizzato il primo dibattito televisivo. Di questo parleremo oggi con una particolare attenzione a quella che sono state una serie troppo lunga forse per un dibattito presidenziale, comunque di inesattezze pronunciate sia dal candidato Donald Trump che da quello democratico Joe Biden. Non prima però di avervi dato conto di quella che è una notizia, qualcuno direbbe bomba, ma non è proprio il caso, perché si parla di la fine del conflitto intralibico, speriamo almeno, firmato un accordo di pace che promette di ridare fiato, ossigeno alla società civile libica, ma anche all'economia. Ieri Sarraj era passato da Roma, vi racconteremo anche questo. Vi ricordo che questa puntata è stata confezionata con me da Antonio Talia, Laura Faggina, Andrea Macchioni, in regia c'è sempre Valeria Bernardi. Vi ricordo i numeri 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, e noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci fa tornare in Nigeria, perché ieri finalmente il presidente nigeriano Muhammadu Buhari è apparso in televisione, ha cercato di placare le proteste, ha esortato i manifestanti a smettere di scendere in piazza e non usare la violenza che sta minando la sicurezza nazionale. Buhari ha invitato i giovani nigeriani a coinvolgere costruttivamente il governo nella ricerca di soluzioni. La vostra voce è stata ascoltata forte e chiaro, noi stiamo rispondendo, ha commentato. Nessun riferimento però è stato fatto alla sparatoria di cui vi abbiamo dato conto qualche giorno fa, che ha coinvolto l'esercito e tanti pacifici manifestanti, e secondo Amnesty International in quella sparatoria hanno perso la vita almeno 12 persone. Politichese, ha tuonato qualcuno, sui social la reazione è stata immediata. Sostanzialmente Buhari non è riuscito a dare risposte alle richieste dei manifestanti e questo sta rafforzando la disillusione, la disaffezione che molti nigeriani hanno nei confronti dell'attuale classe politica. Nel frattempo Lagos, la capitale commerciale e uno dei cuori pulsanti dell'economia nigeriana, è ancora sotto assedio. Perché? Perché c'è un coprifuoco in vigore ormai praticamente 24 ore su 24 e c'è caos, perché ieri si sono sentiti per esempio spari in alcuni quartieri. Qualcuno, ne parlavamo ieri, ha denunciato l'aggressione, il tentativo di irruzione in una struttura penitenziaria. Ricordiamo che Lagos conta 20 milioni di abitanti e praticamente è lockdown, non lockdown a causa della pandemia da Covid-19, ma dei disordini che in questo momento stanno scuotendo la Nigeria, che ricordiamo è la più grande ondata di disordini dal 1999. E poi riapriamo il dossier Nagorno-Karabakh, perché il presidente russo Vladimir Putin sostiene che quasi 5.000 persone, più di 2.000 per parte, siano morte in poco più di 3 settimane di guerra tra azeri e armeni. Il presidente azero Aliyev ha dichiarato di non escludere un'autonomia culturale per gli armeni del Nagorno-Karabakh, ma ha sottolineato che non ci sarà nessun referendum sulla regione contesa. Il presidente turco Erdogan ha detto, e qua siamo alla selva di dichiarazioni, la Turchia ha il diritto di prendere parte al processo di risoluzione del conflitto tra Armenia e Azerbaigian almeno quanto la Russia. E in tutto questo intanto spunta anche il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, che vedrà in queste ore, se non ha già visto, i ministri degli esteri di Azerbaigian e Armenia per un nuovo tentativo per porre fine al conflitto che ha costato, come avete sentito, secondo fonti russe, almeno la vita a 5.000 persone. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che saranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però con Valeria Bernardi andiamo in Libia. E mentre andiamo verso Tripoli, virtualmente naturalmente, arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, quasi tutti concentrate la vostra attenzione su quello che è accaduto ieri notte. Però io fra l'altro vi chiedo, e vorrei sapere quanti di voi si sono fatti la levataccia e sono rimasti in diretta a vedere il dibattito, e quanti invece hanno aspettato questa mattina all'alba come sottoscritto per andarselo a rivedere. Tra le domande invece che arrivano sulla Libia è: quanto reggerà questa tregua, che è la domanda che naturalmente rivolgerò immediatamente al nostro ospite. Tre i punti sul tavolo: prima di tutto questa pace appunto scoppiata, l'incontro di ieri di al-Sarraj con Di Maio e con il premier Conte. Adesso Sarraj sta volando in Francia, sembra un po' un tour del commiato, un tour dell'addio, perché Sarraj è pronto a lasciare il posto a un'altra figura politica. E poi quella stranissima, direi, questione sollevata da alcuni quotidiani italiani, tra cui Avvenire e Il Manifesto. Ricordate le motovedette italiane date in dotazione alla Guardia Costiera Libica? Sostanzialmente se le prese Ankara, nel senso che la Turchia si è presa le funzioni di controllo della Guardia Coste Libico, almeno della zona di Tripoli, il che evidentemente pone gravissimi imbarazzi anche al governo italiano. Buongiorno e ben ritrovato nel Suo Luogo Lontano ad Arturo Varvelli, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, è scoppiata la pace e chiede un ascoltatore: è pace definitiva? Secondo te ci sono pilastri abbastanza solidi perché tenga questa volta? Ma insomma, di definitivo non c'è molto nel Medio Oriente, nello scenario libico in questo periodo. Però sicuramente è un passaggio importante, e lo è molto di più di altre volte. E questo lo dico perché un po' lo scenario internazionale è cambiato, un po' perché c'è una stanchezza relativa al conflitto e un po' perché le posizioni sono un po', come dire, congelate da questo punto di vista. Quindi questo cessate il fuoco duraturo, diciamo, potrebbe anche essere una buona base su cui poi andare a lavorare dal punto di vista politico. Questo era l'obiettivo. Certo. Questo è stato conseguito da una commissione composta da 5 componenti della Cirenaica e 5 componenti della Tripolitania. Quindi immagino che sia abbastanza rappresentativo, anche se sappiamo che alcune milizie rispondono sempre solo a se stesse. Quindi sì. Domani mattina, tra una settimana o tra un mese, potrebbero cambiare idea, avere altri interessi. Certo. L'accordo dei 5 più 5 che ci racconta Arturo Varvelli, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma, è un'immagine molto plastica, così come lo è il primo volo commerciale partito ieri da Tripoli, anzi oggi, è atterrato nella città orientale di Bengasi. È un atto simbolico che va a suggellare questa volontà, questa nuova intesa che dovrebbe legare le due Libie, e vedremo se questo aspetto darà una mano anche alla risoluzione di quel dossier scottante dei 18 marittimi italiani che ancora sono sotto fermo a Bengasi. Una menzione, un cenno, Arturo Varvelli, sulla questione di come la Turchia si sia riuscita magistralmente, dal loro punto di vista, a infilarsi nel controllo delle acque libiche, perché sembra che il guardacoste libico, con mezzi italiani, sostanzialmente risponda più ad Ankara che a Tripoli o a Roma. Sì, è così, cioè potrebbe essere così, può essere così, perché sostanzialmente si è creato un legame di dipendenza, cioè i turchi hanno salvato il governo di unità nazionale che risiede in Tripolitania, ma al di là del governo ha salvato la popolazione locale, quindi si è creata una sorta di militanza da parte del governo di unità nazionale di chi controlla Tripoli con i turchi. I turchi sono stati molto bravi perché hanno fatto quello che la comunità internazionale non ha fatto. Mentre la comunità internazionale continuava a guardare, sponsorizzava, diciamo, un signore della guerra come Haftar, che cercava di entrare in una capitale muovendo guerra, insomma i turchi sono stati più intelligenti, più abili, e adesso sono anche piuttosto politicamente spregiudicati, quindi è molto chiaro il loro intento con il controllo della guardia costiera, controllare i flussi traffici illeciti, quindi mi pare evidente che non attraversiamo un buon momento da questo punto di vista, che i turchi saranno presenti sul quadrante libico, sono arrivati per non andarsene domani mattina, e quindi noi avremo a che fare con, sì certo, una Libia nel quale ci sarà una serie di influenze esterne che perdureranno nonostante si possa trovare anche un accordo e, come dire, anche una situazione molto più pacificata, ma le influenze esterne io temo continueranno ad esistere sul terreno libico, e noi dovremo trovare anche un modus vivendi con i turchi. Questa è la realtà. La posizione turca, che si cristallizza in maniera anche molto spregiudicata alle parole di Arturo Varvelli, che dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Io lo ringrazio tantissimo. Arturo, ci sentiremo a breve, soprattutto per capire quanto regge questa pace scoppiata quest'oggi, grazie anche alla mediazione delle Nazioni Unite. Grazie mille Arturo Varvelli. Questa era la nostra pagina tutta dedicata alle ultimissime notizie che arrivano dalla Libia. Adesso però Laura Faggin e Valeria Bernardi ci hanno raccontato 90 minuti di scoppiettante incontro-scontro tra Biden e Trump, sintetizzato però ovviamente alla nostra maniera in 90 secondi. Sentite. Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. We have a vaccine that's coming. It's ready. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing. Nobody tougher than me on Russia. I sold, while he was selling pillows and sheets, I sold tank busters to Ukraine. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. 10 seconds, Mr. President. That's 10 seconds. A typical political statement. Let's get off this China thing. And then he looks, the family, around the table, everything. Just a typical politician when I see that. Let's talk about North Korea. I'm not a typical politician. Okay. That's why I got elected. The difference between the president, I think health care is not a privilege, it's a right. Everyone should have the right to have affordable health care. Così 90 secondi vi siete gustati quello che è stato un dibattito a tutti gli effetti, per fortuna cancellata la benefica memoria di quel primo improvvido dibattito dove non si era parlato assolutamente dei contenuti. Questa volta si è parlato di assistenza sanitaria, di Covid, di interessi con la Cina, un po' di politica estera, non tantissimo in verità, di attenzione alla comunità afroamericana, con una serie di dichiarazioni che ancora una volta però hanno prestato il fianco ai cosiddetti fact checkers, cioè a coloro, giornalisti, che vanno a verificare l'esattezza, la fondatezza delle affermazioni contenute, delle affermazioni fatte, perdonatemi, dai due contendenti. Secondo la CNN, il 73% degli spettatori dell'ultimo dibattito prima del voto, le critiche di Biden a Trump erano in gran parte giuste, mentre gli attacchi del presidente al suo avversario sono stati giudicati corretti dal 50%. Però sempre secondo la CNN, il dibattito di ieri notte non ha spostato gli equilibri della vigilia. Sostanzialmente si dice che le preferenze verso Biden prima del duello TV erano il 55% e sono stabili al 56%. Più o meno uguali anche i numeri di Trump, 42% degli spettatori favorevoli al presidente prima del dibattito, 41% dopo. Adesso naturalmente, senza alcuna pretesa statistica, vengo a voi al 349-238-6666. Come ho visto io il dibattito, esordisce un ascoltatore e ci tengo anche a sapere la vostra opinione. Biden ha puntato tutto sulla paura del Covid. Chi ha paura del Covid voterà per Biden. Trump ha vinto sull'economia e sulla politica estera, ha vinto anche sulla riforma sanitaria. Vediamo allora che tipo di dibattito ha visto Simona Siri, giornalista da New York, scrive tra gli altri per Vanity Fair, USA, in Italia per La Stampa e Il Foglio. Simona, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te per essere con noi e del tuo tempo. Simona, la domanda di rito è: chi ha vinto ieri sera, secondo te, in questi 90 minuti belli, belli concitati e ricchi finalmente di contenuto? Fosse una partita di calcio, forse direi un pareggio. Ho visto che ci sono degli instant polls, uno da CNN e un altro da, adesso non ricordo chi, che danno Biden in vantaggio, sono su, mi sembra 500 persone sì. Sentite al telefono subito dopo il dibattito, non so se ne avete già parlato, però sinceramente a me sembra un pareggio, nel senso che non c'è stato nessun affondo pesante, anche se Trump ha provato insomma a mettere in difficoltà Biden sulla storia del figlio, della famiglia, dandogli del corrotto, però non mi è sembrato che questi affondi facessero presa più di tanto. Biden si è difeso all'ultimo, nella seconda parte del dibattito, mi è sembrato un po' stanco di Biden, sì. più di Trump sicuramente, e quindi alla fine io direi un pareggio, sì. Sicuramente sì, come hai detto, è stato un dibattito più di sostanza, ecco, finalmente, rispetto a quello al primo, anche perché insomma è stato sicuramente migliore, anche perché appunto il livello del primo era stato talmente basso che ci voleva poco a crescere, no? State ascoltando la voce in diretta da New York di Simona Siri, giornalista, firma di Vanity Fair statunitense in Italia, Stampa e Il Foglio, lì potete leggerla. Quest'oggi è con noi, ti dà ragione, l'editorialista Doug Shone su Fox News, che ha scritto la performance del presidente Trump è stata misurata e controllata, e quella di Biden è calata col passare del tempo, ha faticato a trovare risposte coerenti alle pressanti domande di Trump. Poi c'è stato quel segnale che gli attenti osservatori della politica americana ha fatto tornare indietro al 1992, perché a un certo punto Joe Biden ha guardato l'orologio, e qua le interpretazioni possono essere tante. Una potrebbe essere: ma quando finisce questo dibattito? Il che potrebbe essere allarmante, o l'altra semplicemente un controllo dei tempi. Da molti è stato vissuto un momento di stanchezza, come due pugili sul ring che sentono lo scoccare, le campanelle, dicono: ancora un altro round, non ce la faccio, sono un po' troppo suonato. Simona Siri, che idea ti sei fatta di quel gesto? Forse, secondo alcuni, addirittura potrebbe costare il vantaggio, forse un po' esagerato, eh? Sai che non l'avevo colto, sinceramente. Sicuramente però è stato un calo di Biden. D'altronde insomma l'età non è insomma è quella che è. Lui è partito bene, però sì, sicuramente era stanco alla fine. Però su questa cosa invece del io ho trovato più in certe risposte Trump un po'. Sono qua per dovere e ormai quasi non ci credo nemmeno più, sinceramente. Cioè, sì. Sono stati da alcuni momenti in cui lui ripete i famosi talking points, no? All'infinito, sul coronavirus, ripete costantemente che se lui non avesse agito presto, chiedendo i viaggi dalla Cina, ci sarebbero stati 2 milioni di morti, ma è una tiritera che lui ripete senza nemmeno crederci più, insomma, mi sembra. E quindi non so, io ho colto più questo aspetto di Trump, che insomma sembra quasi anche lui un po' stanco, forse di quello che ripete ormai da mesi. Sì, diciamo che alcuni slogan, alcuni cavalli di battaglia sembrano ormai un po' delle litanie, perché anche guardando varie apparizioni, interviste televisive o dibattiti, utilizza proprio lo stesso linguaggio, lo stesso lessico, a volte pure addirittura le stesse frasi. Devo dire che fra tutti mi ha colpito invece Barack Obama, che qualche giorno fa, 2 giorni fa se non erro, è sceso in campo ed è sceso in campo con una notevole energia. Quello sì, vedremo se sposterà. Fra l'altro è stato l'unico ex presidente che ha attaccato frontalmente l'attuale presidente in carica, che non è esattamente nella grammatica istituzionale statunitense qualcosa di particolarmente usuale, mentre è molto usuale la presa di posizione da parte di colleghi sia repubblicani che democratici. Simona, andiamo a sentire insieme cosa ha detto il senatore Rick Santorum sul dibattito di ieri. Sentiamo. Donald Trump was right on his game. I actually think that he completely skewered Joe Biden. You mentioned the point where he called Biden a politician looking in the camera. That Joe Biden was bobbly, a little shaky at the end, and looking at his watch to see when this thing would be over. E come avete sentito, anche se in inglese è molto molto veloce, sostanzialmente Santorum, schieramento repubblicano, stava ricapitolando quello che ci siamo detti. Trump bello disinvolto, guardava la telecamera, Biden invece si è guardato l'orologio, sembrava stanco, a volte balbettava. E vi faccio sentire, come c'è sempre Simona Siri, firma di varie riviste in Italia, la potete leggere su Stampa e Il Foglio, è in diretta da New York, anche Van Jones, che invece ovviamente è dell'altro schieramento, e non l'ha certa mandata a dire, sentite. Donald Trump did his best ever, and his best was not good enough. And some of the stuff he said, I agree with Gloria. The shocking lack of humanity that he demonstrated talking about those children was horrific. It was inhuman. Shocking lack of humanity, una scioccante, incredibile mancanza di umanità, così viene bollato Donald Trump. L'ultima domanda per Simona Siri prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro: come sta influendo il fattore Covid-19? Come ha influito fino adesso? Il fatto che entrambi i candidati sostanzialmente abbiano dovuto rinunciare a buona parte degli impegni fisici, adesso chi ha avvantaggiato fino a questo momento secondo te? Ma guarda, ha influito semplicemente per il fatto che sono ancora lì a parlarne, perché forse per Trump l'argomento Covid era sarebbe già esaurito. Arrivato. Lui, certo, ha fatto di tutto per evitare di riportare questo argomento al centro della campagna elettorale. Se ti ricordi, durante la convention dei repubblicani il nome Covid o coronavirus o pandemia non è stato nominato nemmeno una volta, cioè già lì allora aveva svoltato, no? Poi il problema è che poi Trump si è ammalato e quindi è tornato, certo, al centro appunto del discorso. Sicuramente questa cosa lui la capisce, perché dove si mette in luce la sua incompetenza, insomma. Sì. Quindi in questo senso Biden è avvantaggiato. Trump farebbe di tutto, però Trump cerca sempre di parlare ovviamente di economia e Biden cerca di parlare di coronavirus. Sono i due, diciamo, i due greatest hits delle due campagne. Sì. I due dossier che i due candidati hanno fatto propri per cercare di smuovere quella ormai risicata percentuale di indecisi, perché peraltro ricordo nel frattempo più di 47 milioni di cittadini statunitensi hanno già votato via posta o nei seggi appositamente creati e sono per la maggior parte democratici. Adesso bisogna smuovere gli ultimi indecisi, smuovere quelli che assolutamente non hanno intenzione di votare. Io invece lascio libera ringraziandola tantissimo Simona Siri, giornalista da New York. Grazie mille Simona, buona giornata e buon lavoro. E dopo il dibattito televisivo di ieri sera, come stanno andando le borse? Sentiamo. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Nessun luogo è lontano. It will go away, and as I say, we're rounding the turn, we're rounding the corner. It's going away. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources to be able to do that. E così avete sentito uno dei passaggi più interessanti del dibattito di ieri sera tra Donald Trump e Joe Biden. Da un lato Donald Trump che ripeteva una cosa che ha già ripetuto tante altre volte: il virus sta andando via, siamo a un punto di svolta. Dall'altra Joe Biden che invece puntava sull'utilizzo delle mascherine, i tamponi e riaprire in qualche modo il paese utilizzando dispositivi sanitari e protocolli sanitari che permettessero questa riapertura. Questo è uno dei tanti scambi di fioretto, finalmente lo possiamo dire, non le sciabolate dell'altra volta, che sono avvenuti nei 90 minuti di ieri sera. Però a un certo punto ci sono state una serie di scivoloni, voluti o non voluti, inesattezze direbbe qualcuno, bufale vere e proprie direbbe qualcun altro. Proviamo allora a capire cosa è stato detto e se è stato detto qualcosa di inesatto. Lo facciamo con Carlo Canepa di Pagella Politica, fact checker d'assalto, mi piace definirlo così. Carlo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, abbiamo appena sentito, stiamo superando la crisi, il coronavirus sta andando via. Questa è una delle frasi che sono state dette da Donald Trump. Voi state facendo un lavoro a Pagella Politica proprio di fact-checking, cioè di verifica se l'affermazione fatta da quel politico sia vera o meno. Mi sento un po' in imbarazzo però a chiederti se sia vero che il virus sta andando via, perché è evidente insomma che fosse poco difendibile questo aspetto. Tra pochissimo entreremo nel dettaglio di altre dichiarazioni, però posso farti una domanda preliminare, diciamo di procedura. Perché e quanto conta dire cose inesatte o palesi bugie? In altri termini, porta più voti dire il falso o il vero, anche se poi il falso magari viene smentito da persone come voi? Allora, questa è la domanda delle domande per il nostro mestiere. Quello che mi viene da dire è che per quanto riguarda il dibattito degli Stati Uniti, dire una falsità per Donald Trump non credo sposti i voti né da una parte né dall'altra, e negli ultimi anni abbiamo visto che avere questo atteggiamento non sembra avere enormi ripercussioni dal punto di vista delle decisioni dell'elettorato. Però mi viene anche da dire che il compito principale del giornalismo non è tanto quello di spostare i voti, ma di informare i cittadini. Quindi, anche al di là del fatto che tutte le testate giornalistiche statunitensi o noi in Italia che ci occupiamo di verificare le dichiarazioni dei politici magari non riusciamo a spostare il voto di un elettore da una parte all'altra, non è quello il nostro obiettivo, certo, principale, ma è quello di fornire gli strumenti appunto per valutare se una cosa che dice un politico non solo è vera o è falsa, ma anche è fuorviante, parzialmente vera, parzialmente falsa, perché poi le sfumature sono tante e il diavolo sta nei dettagli. È assolutamente da sottoscrivere e condividere le parole di Carlo Canepa, Pagella Politica. Non soltanto Trump, forse con una leggera predominanza, diciamo, di inesattezze pronunciate ieri sera, ma anche Joe Biden, per esempio, a un certo punto ha detto: Trump ha fatto crescere il deficit commerciale con la Cina. Esattamente, sì, questo è un po' un cavallo di battaglia di Biden. I nostri colleghi statunitensi hanno più volte sottolineato che questo non è vero. Trump già in campagna elettorale nel 2016 aveva accusato Obama appunto di aver fatto aumentare, no, il deficit, quindi la differenza sostanzialmente tra quanto gli Stati Uniti riescono a esportare in Cina e quanto importano. Ebbene, in realtà non è vero. Se andiamo a vedere i numeri, il deficit commerciale con la Cina si è aumentato all'inizio della presidenza Trump. Nel 2017 aveva raggiunto la cifra di circa 337 miliardi di dollari e nel 2018 era arrivato fino a 380 miliardi di dollari. Però è anche vero che nel 2019 questo deficit è sceso intorno al 308 miliardi di dollari, che è la cifra più bassa e mai raggiunta negli ultimi tre anni della presidenza, sì, di Obama. E sì, nei primi sei mesi di quest'anno il deficit trade è intorno ai 130 miliardi di dollari, che è ancora più basso rispetto ai primi sei mesi del 2019. Quindi diciamo che Biden dice una cosa non vera quando sostiene che appunto il deficit contratto con la Cina è aumentato. Torniamo dalla parte repubblicana, dalle affermazioni di Donald Trump. Stiamo sempre sull'economia perché un po' il cavallo di battaglia dei repubblicani, di Donald Trump in particolare, evidentemente ha sempre ripetuto con grande orgoglio: io non sono un politico, sono un businessman, e quindi non aspettatevi cose da politici, ma piuttosto cose da imprenditori. Ha detto: stiamo registrando numeri record, 11.4 milioni di posti di lavoro in un breve periodo di tempo. È vero, Carlo Canepa? Esattamente, qui è il classico esempio di riportare un numero sostanzialmente corretto, ma che è parecchio fuorviante. Se andiamo a vedere, in effetti, tra febbraio e aprile, gli Stati Uniti avevano perso circa 22 milioni di posti di lavoro. Non so se i nostri radioascoltatori si ricordavano le famose copertine del New York Times, in cui si vedeva appunto questo grafico, no, delle richieste di disoccupazione che, sì, in quei mesi schizzavano alle stelle. Bene, sono stati recuperati in effetti circa 11,4 milioni di posti di lavoro, ma ne mancano ancora oltre la metà, quindi questo record dimenticato da Trump comunque è fuorviante, perché molti analisti hanno sottolineato come sia stato un recupero molto significativo nell'occupazione, ma si è ancora lontanissimi dai livelli precedenti alla crisi e non si sa ancora bene strutturalmente quanto saranno i posti di lavoro effettivamente persi, certo, a causa dell'emergenza. Come hai detto prima tu, gli Stati Uniti sembrano ora di nuovo avvicinarsi a una terza ondata, cioè i numeri stanno di nuovo salendo in maniera molto, molto preoccupante, quindi chissà che nei prossimi mesi non ci sia di nuovo un peggioramento della situazione del mondo del lavoro al di là dell'Atlantico. Certo, e proprio il peggioramento della situazione sanitaria, o quantomeno la cattiva gestione, a detta di molti, dell'amministrazione Trump del Covid-19 è un grande cavallo di battaglia, evidentemente, per Joe Biden. Molto spesso ha battuto il punto sul numero dei morti statunitensi. Ieri poi l'ha fatto anche in una maniera con un tono anche molto grave, insomma, dicendo, guardando la telecamera, dicendo agli spettatori: guardate che so che a casa vostra c'è una sedia con un posto mancante. Insomma, è stato molto molto molto forte. Però poi, quando dice gli stati governati dai repubblicani stanno registrando la crescita dei contagi più alta, vuole affondare il colpo, ma il colpo è sbagliato. Sì, diciamo che qui è come ha detto il New York Times nel suo fact checking, questa frase è esagerata, perché è vero che sono stati colpiti, per esempio nel Midwest, molti stati governati da repubblicani, ma anche i cosiddetti blue state, quelli dei democratici, non sono stati risparmiati. Basti pensare ai numeri della Virginia, del Rhode Island o del New Mexico. È interessante invece che, se il New York Times gli ha dato come verdetto esagerato per questa dichiarazione, Washington Post in realtà gli ha detto che era per lo più accurata, perché andando ad analizzare i numeri aggiustati in rapporto alla grandezza della popolazione, viene fuori che effettivamente gli aumenti più significativi sono in stati come il North Dakota, il Montana, lo Utah, il Wyoming, governati dai repubblicani. E qui è uno spunto che lascia i radioascoltatori di come, sì, il fact-checking cerchi ovviamente di discrimine tra una dichiarazione che è vera, falsa o ciò che sta in mezzo, però bisogna anche stare attenti che, a seconda di come vengono interpretati i numeri e a seconda dell'indicatore che si utilizza, è facile poi anche arrivare a conclusioni discordanti tra gli stessi fact checker. È certo, perché quello che ci sta raccontando Carlo Canepa di Pagella Politica, se fossimo maliziosi, è veramente un'arte, perché al di là della falsità totalmente conclamata, a volte il politico, stiamo parlando del caso degli Stati Uniti, potrebbe prendere un numero che oggettivamente è corretto, è reale, però magari riferirlo a un lasso di tempo con una certa ambiguità, e a quel punto l'informazione diventerebbe immediatamente fuorviante. Parametrare su, perdonate la ripetizione, ma parametri diversi uno stesso numero può portare evidentemente a risultati completamente diversi. Anatomia di un dibattito elettorale, questo stiamo facendo con Carlo Canepa di Pagella Politica. Io direi, facciamo una piccola pausa, lasciamo le strade statunitensi, quelle su cui tanti ascoltatori stanno adesso scrivendo messaggi al 349-238-6666, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. We learned that this president paid 50 times the tax in China, has a secret bank account with China, does business in China, and in fact is talking about me taking money. I have not taken a single penny from any country whatsoever, ever. Joe got $3.5 million from Russia, and it came through Putin because he was very friendly with the former mayor of Moscow, and it was the mayor of Moscow's wife, and you got $3.5 million. Your family got $3.5 million, and you know, someday you're gonna have to explain, why did you get three and a half? I never got any money from Russia. I don't get money from Russia. E così avete sentito anche queste pungolate che avevano a che fare con gli interessi economici dei due candidati nei vari paesi, la Cina, la Russia, l'Ucraina. Forse su Hunter Biden Trump poteva pestare un po' di più. Quella che da molti veniva considerato il colpo a sorpresa da ottobre, l'ultima bomba da scagliare per cercare di ribaltare i sondaggi, che per il momento a livello nazionale e in alcuni degli stati, gli swing state cosiddetti, danno un discreto vantaggio a Joe Biden su Donald Trump. Siamo con Carlo Canepa di Pagella Politica per passare ai raggi X, quelle che sono state le dichiarazioni di ieri dei due candidati. Ce n'è una che, come dire, si potrebbe bollare come vera e inaspettata. A un certo punto Trump ha detto: Biden ha fatto una legge, la Crime Bill, che ha messo decine di migliaia di afroamericani in prigione. Proprio quegli afroamericani che, il cui cuore Joe Biden vorrebbe conquistare, che sta cercando di spingere a votare. Ma è vero o no? Sì, possiamo dire che questa dichiarazione che ha fatto Trump è per lo più vera. In che senso? Vanno chiariti i dettagli. Da ricordare che Joe Biden è un politico dall'esperienza molto, molto lunga e che durante gli anni 90 ha ricoperto dei ruoli importanti all'interno del Senato durante appunto l'amministrazione democratica di Bill Clinton. Era presidente della Commissione Giustizia al Senato e in quegli anni lì sono stati approvati in effetti dei provvedimenti che hanno inasprito le pene e che secondo molti esperti hanno portato anche a un aumento delle persone incarcerate. Particolare, l'accusa principale che viene fatta a Biden è l'approvazione del cosiddetto Crime Bill nel 1994, sì. Che tra le altre cose ha portato degli incentivi per costruire prigioni, ha introdotto la cosiddetta provvedimento dei tre strike, ovvero che se commettevi un terzo grave reato dopo averne già commesso altri due rischi di finire in prigione per sempre, significando, e quindi possiamo dire che in un certo senso di queste misure sono stati colpiti afroamericana, e i nostri colleghi fact checker statunitensi hanno sottolineato appunto come questa critica precisa e puntuale a Biden, seppur in un certo senso esagerata in alcuni casi da Trump, coglie il segno. Certo, anche perché, come Donald Trump ha molto spesso sottolineato nei suoi faccia a faccia o nei suoi incontri televisivi, Joe Biden ha avuto tanto tempo, ha avuto una lunghissima carriera politica e bisogna andare fino a lontano, per noi 1994, per avere uno degli esiti di uno dei suoi provvedimenti. Intanto vi do conto di alcuni sondaggi che sono molto molto interessanti. Quello del Pew Research Center, per esempio, l'83% del campione sollecitato sostiene che quest'anno le elezioni presidenziali contino davvero. È la percentuale più alta mai registrata negli ultimi 20 anni. E poi al 349-238-6666 un po' di ascoltatori. Ho visto il dibattito, scrive un ascoltatore, di due candidati. Hanno dato l'impressione di ribadire le narrazioni gradite ai propri elettori e che quindi alla fine non abbiano mosso foglia. Carlo Canepa, ormai la polarizzazione è questa: si parla ai propri elettori, si consolidano quegli elettori lì, e gli indecisi, quel 5-10% che si dice, chi è che li tirerà per la giacchetta a questo punto? No, questa è un'osservazione molto interessante, perché se andiamo a vedere appunto modus operandi dei fact checker statunitensi, proprio nei giorni precedenti al dibattito, per fare il fact checking live o uscire subito con un pezzo, che cosa fanno? Vanno a riascoltarsi tutti i discorsi dei due candidati presidenti, e quello che scoprono fondamentalmente è che hanno degli slogan attuali, veri o falsi, poi loro lo passano al dettaglio, e quindi sono già pronti in un certo senso, appena si parla di una tematica, a intervenire, perché sanno già che molto probabilmente Trump tirerà fuori i suoi cavalli di battaglia e Biden i suoi cavalli di battaglia. Come abbiamo detto prima, lo vedremo solo nelle urne, se certo. Una parte dell'elettorato di Trump ora è stufo del presidente, oppure se gli darà ancora un appoggio, o viceversa, se Biden riuscirà, come sembra, a giustificare ad averla vista. Quello che mi viene da dire è che effettivamente il fenomeno della polarizzazione non è una novità di oggi, ne parliamo da tanti anni con più o meno luoghi comuni, però non tirerà col mio mulino, ma credo che ovviamente il lavoro del fact checking è comunque essenziale, fondamentale, al di là di tutto questo, per informare in maniera corretta i cittadini di questo elettorato. Non c'è dubbio, proprio qualche giorno fa cercavo di chiudere in maniera efficace una di queste puntate dicendo: abbiamo tutti il diritto di avere un'opinione, ma abbiamo il dovere di averla informata, altrimenti si va a inquinare il tutto. Di sicuro questo voto statunitense è molto molto sentito, lo dicevo a inizio trasmissione, 47 milioni di cittadini statunitensi hanno già votato, si tratta circa il 30% del numero totale di votanti nelle elezioni del 2016 e sarebbero un terzo degli iscritti alle liste di voto, che secondo un dato del 2018 sono 153 milioni. Fino a 80 milioni di americani potrebbero votare per posta, e da questo punto di vista il presidente Donald Trump aveva già fatto iniziare ad aleggiare dei dubbi sulla veridicità di questo voto e sulla possibilità che vi fossero dei brogli. Con Carlo Canepa di Pagella Politica abbiamo provato a passare i raggi X, le affermazioni fatte dai vari dai due candidati di ieri sera. Tra pochissimo torno ai vostri messaggi. Carlo, l'ultima domanda per te, che è la domanda: chi vince il 3 novembre? E mi aspetto uno slogan bello fulminante, così ti saluto e ti lascio al tuo lavoro. spero vinca il fact checking, sembra una e questo non è male. E questo non è male. Come si dice, scontata, però ripeto, lo vedremo tutti nella notte con lo spoglio dei voti, ma appunto spero sempre di più che il lavoro come il mio prenda piede. Negli ultimi anni sono state tantissime in realtà in tutto il mondo nate di fact checking. In Italia ci siamo noi, sì, gli unici di Pagella Politica che di fatto facciamo solo questo dal mattino alla sera, ma spero che prima o poi, diciamo, questi numeri continuino a crescere, perché ce n'è bisogno, ecco. Coraggio Carlo, perché c'è tanto lavoro da fare, quindi buona fortuna, in bocca al lupo, buon lavoro. Carlo Cane, Pappagella Politica, buona giornata, buon lavoro. Grazie a tutti, buona serata. Abbiamo un minutello, un po' di messaggi al 349-238-6666, c'è chi si è annoiato al dibattito televisivo di ieri, qualcun altro fa domande sul sistema elettorale americano, magari ci torneremo in una delle prossime puntate, qui a nessun luogo è lontano. Un paio di osservazioni che sono francamente bizzarre: siete patetici, sempre contro Trump, presto la vittoria, che arriva evidentemente da un tifoso, non un ascoltatore, perché abbiamo passato in rassegna le bufale pronunciate sia da Trump che da Biden. Quindi, e invece Maria Bernardi, devo dire, il messaggio che mi ha più sconcertato è un messaggio che scrive: ma secondo voi, ma lei pensa veramente che agli italiani interessano i problemi tra Trump e Biden? Cioè, dopo un'intera trasmissione, una stagione e mezzo di affari internazionali, c'è qualcuno che ci scrive: lei pensa veramente che gli italiani interessano i problemi? È la prima economia del mondo, sostanzialmente, è la nazione più importante nel mondo, è la democrazia più importante nel mondo, ospitiamo le basi americane, facciamo affari con gli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono praticamente ovunque, condizionano la politica mondiale. Io sì, penso veramente che gli italiani interessino i problemi tra Trump e Biden. E detto ciò, come al solito, me ne vado. You're fired. Sempre col sorriso, sempre ringraziando naturalmente tutti voi ascoltatori, tutta la squadra di Nessun Luogo, dandovi appuntamento domani ore 10 col meglio di, e poi lunedì alle 16 vi aspetto. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.